Vuoto Antonio, vuoto Antonio, vuoto Antonio, italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Buona giornata cari ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a Vota Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete. Cerchiamo di farlo ogni settimana, a volte con cose serie, a volte con cose meno serie, ma non necessariamente meno serie, perché magari un po' più divertenti, che ci possono dare un taglio e un'idea diversa di quello che succede sulla rete intorno alla politica. Magari la prossima settimana torneremo a parlare del Movimento 5 Stelle. Oggettivamente ne abbiamo parlato fino alla noia del successo che ha avuto anche grazie alla rete. In realtà non è stato solamente quello. Come sapete abbiamo affrontato anche il tema di quanto abbia inciso la piazza, di quanto in realtà appunto Beppe Grillo, che passava per essere l'uomo appunto della rete, abbia sfruttato un mezzo così tradizionale come la piazza, e anche grazie a quello, evidentemente anche grazie all'effetto scenico, si è riuscito in questo risultato elettorale. Poi naturalmente ci sono questioni di contenuti sulle quali in questo caso non ci vogliamo soffermare. Questa settimana naturalmente ci ritroveremo tra poco per il punto di Stefano Folli, in una settimana che si apre, che è molto importante perché è la settimana di apertura delle nuove Camere. E poi ci occuperemo di qualcosa di un po' più leggero nella seconda parte della trasmissione, perché vi abbiamo parlato tante volte di attivismo digitale, parleremo di inattivismo digitale. C'è un gruppo che si è creato su Twitter, gli Indivanados, fa il verso agli Indignados, insomma sono coloro, in realtà siamo tutti noi, parliamoci chiaro, che seduti su un divano guardando un talk show politico scrivono cose su Twitter molto indignate, molto arrabbiate, oppure magari ci sono gli Indivanados classici, quelli analogici, quelli che lo fanno parlando con la propria famiglia, con i propri amici se ce l'hanno invitati a cena, se insieme a loro guardano un talk show. Poi nell'ultima parte della trasmissione invece avremo ospite una persona che si occupa di internet e di politica, ma nel senso che l'ha fatta la politica e l'ha fatto internet, ossia Renato Soru, protagonista tra l'altro di un bel intervento nella direzione del Partito Democratico che si è svolta la scorsa settimana. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Nemmeno una settimana alla prima seduta delle nuove Camere. La giornata inaugurale sarà il 15 di marzo. Finalmente vedremo entrare in Parlamento, appunto da deputati e senatori, i famosi 163 del Movimento 5 Stelle. In attesa di questa settimana però rimaniamo senza governo, meglio con un governo in carica, insomma, che dovrebbe essere solo per il disbrigo degli affari correnti, non fosse che Mario Monti deve andare a Bruxelles in settimana. Come avete capito, come sempre a quest'ora è il momento del punto politico. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone, eccoci qua. Eccoci qua, abbiamo parlato già la settimana scorsa e già subito dopo il voto di tempesta perfetta, mi sembra che non ne siamo ancora usciti. La tempesta è passata, ha lasciato un panorama un po' così di macerie, anche di speranze, però sta di fatto che adesso siamo in una situazione in cui c'è una forte nebbia, questa è l'espressione che ha usato il capo dello Stato, è un po' vero, c'è una nebbia, non abbiamo governo, non abbiamo nemmeno nessuna idea precisa su come farne, averne uno, ci sono queste scadenze che tu hai ricordato che possono dire poco al cittadino normale che ha le sue incombenze quotidiane da svolgere, però sono passaggi delicati proprio per arrivare a dare un assetto generale a questo paese che ne ha tanto bisogno, il governo, i presidenti delle Camere, il presidente della Repubblica che tra poco dovrà essere scelto e eletto al posto di Napolitano. Quindi in qualche misura sì, hai ragione, la tempesta perfetta continua e non si vede un approdo. E nel frattempo, appunto, come già dicevi, dice Napolitano, si naviga nella nebbia. Sembra navigare nella nebbia, a dir la verità, anche il Partito Democratico, che ritiene di avere il pallino in mano, ha riunito la sua direzione, 9 ore di discussione in diretta streaming dove, devo dirlo francamente Stefano, ho sentito delle cose lunari oggettivamente in quelle 9 ore, me le sono seguite abbastanza intensamente. Sì, guarda, noi stiamo camminando sull'orlo del burrone, è un'immagine un po' abusata però ogni tanto rende l'idea. E qui si rischia davvero di, diciamo, per le pretese, se vogliamo anche i diritti, diciamo, dei partiti che sovrastano e si sovrappongono agli interessi generali del paese, rischiamo veramente un patatrac, perché se tutta questa insistenza del Partito Democratico e del suo segretario per avere la guida del governo non va a buon fine, e al momento non ci sono non c'è indizi che possa andare a buon fine, poi ci ritroviamo ci troviamo sulla china che porta inesorabilmente alle elezioni anticipate, cosa che molti in quel partito ritengono sia il male minore, perché sono convinti che con le nuove elezioni molti elettori grillini torneranno a casa, cioè torneranno alla casa madre. Ebbene, questo è un rischio altissimo che il paese secondo me non si può permettere, perché se questo calcolo è sbagliato ci ritroviamo con un Parlamento ancora più ingovernabile, e avendo sprecato una carta tremenda e con un messaggio molto negativo che sarebbe a quel punto trasmesso all'Europa e ai nostri partner internazionali. Quindi attenzione a non esagerare nel voler camminare sul ciglio del burrone. Il Partito Democratico dice non c'è un piano B. In realtà un piano B c'è. Ce l'ha in mano il Presidente della Repubblica ed è stato espresso tra l'altro anche durante la direzione, no, del Partito Democratico. Si dice che Umberto Ranieri, che fa parte della direzione del PD, sia uno degli uomini più vicini al Presidente, forse il più vicino, ha espresso esattamente quest'idea, che si debba andare ad un governo a questo punto veramente di larghe intese. Però da quel lato c'è l'ostacolo Berlusconi. Allora, il piano B è affidarsi fino in fondo al Presidente della Repubblica, fidarsi di quello che il Presidente della Repubblica farà o dirà. Non importa che sia in scadenza di mandato, finché è al Quirinale gli si dovrebbe dare fiducia, e se chiede una forma di larga intese, magari mediate, filtrate attraverso un accordo istituzionale e non politico, occorrerebbe avere il coraggio di accedere a questa richiesta. Ma se non ci si affida a Napolitano, il piano B è uno solo, quello di voler a tutti i costi tentare di formare un governo che è fondato su un'ipotetica maggioranza con gli uomini, insomma, con i 5 Stelle di Grillo, e questa maggioranza non c'è allo stato delle cose, e quindi il passo successivo inevitabilmente sarebbe al ritorno alle urne. Allora si dice, ma non possiamo fare accordi con Berlusconi perché la cosa è intollerabile. Beh, insomma, intanto per un anno il Partito Democratico ha votato insieme al Popolo della Libertà con il governo Monti, no? Hanno votato in Parlamento, quindi un precedente già esiste. Anche allora non era un accordo politico ma era un accordo istituzionale, e perché non ripetere questa esperienza? Allora ti rispondono, ma perché ci ha portato male questo anno in cui abbiamo votato Monti, l'abbiamo sorretto, misure impopolari. Ma gli scenari cambiano, questo è un altro scenario. Qui non si sta parlando di un governo che deve attuare una rigorosissima austerità economica, qui si parla di un'altra cosa. Quindi almeno un tentativo andrebbe fatto, ma se non c'è fiducia nel Presidente della Repubblica è difficile che questa cosa possa andare in porto. In realtà poi, Stefano, c'è anche l'altra parte di questo eventuale governo di larghe intese, ossia appunto il PDL che, complice la questione della giustizia, la sentenza sul caso Unipol, quella sul caso Ruby in arrivo, l'inchiesta che riguarda la compravendita di senatori per far cadere il governo Prodi dopo la testimonianza di De Gregorio, complice tutto ciò, il PDL vorrebbe il ritorno alle urne, quindi bisogna vedere a questo punto anche se ci stanno loro ad un governo di larghe intese. Il PDL, no? In questo momento è in preda a fortissime convulsioni interne per le ragioni che tu hai esposto, e quindi certamente è tutto da vedere se può essere un partner affidabile. Però non è del tutto esatto che la strategia di Berlusconi sia tornare alle urne. Diciamo che lui gioca un po' su due tavoli. Questo aspetto, questa ipotesi, è la prima parte del discorso. Cioè, la seconda parte è cercare di avere un'alleanza, una grande coalizione, però non breve nel tempo. La sinistra la vorrebbe, semmai la vorrebbe breve, legata a due o tre cose, due o tre riforme da fare, cambiare la legge elettorale per poi tornare alle urne. Invece la destra la vorrebbe più lunga nel tempo, almeno due o tre anni, e questo francamente non è facile oggi, molto difficile. Molto difficile da pensare. Veniamo agli altri, al terzo elemento, che è quello su cui si concentra l'attenzione ormai in maniera quasi maniacale. Abbiamo le infografiche su come è fatta la tutina di Grillo, insomma giacca a vento di Grillo con quella che, nella quale appare anche mascherato. Ogni giorno si va a scavare nelle storie di questi deputati 5 Stelle, chi sono, cosa fanno, la vicenda dei microchip, i vegani, insomma tutto quanto, insomma, c'è questo strano animale che è il Movimento 5 Stelle, che sta entrando in Parlamento e sul quale tutti concentrano l'attenzione. Nel frattempo Grillo rimane là fermo sulle sue posizioni, al PD gli dice non se ne parla, nel frattempo continua a prendere a legnate i giornalisti, e dalle colonne di Time Magazine dice il rischio, cioè siete fortunati che ci siamo noi, perché altrimenti le strade si sarebbero riempite di violenza. Ma sai, secondo me Grillo sa vincere le elezioni, lo ha dimostrato ampiamente, è un grandissimo istrione, un comunicatore eccezionale, però poi quando ha una forza così ampia, no, 163 parlamentari, poi non sa esattamente come gestirla politicamente, quindi l'intransigenza assoluta, che è la negazione della politica, no? Perché la politica è anche capacità di fare accordi, di scendere a compromessi, fare un compromesso su un punto per ottenere poi un altro punto. Ecco, ma se non c'è questa capacità, se non si ha nemmeno l'idea da dove cominciare, e si ha soltanto questa grandissima abilità nel guadagnare voti nelle campagne elettorali, è inevitabile che ci sia un atteggiamento di assoluta chiusura, di assoluta intransigenza, con la speranza poi di tornare sul proprio terreno favorito, cioè le campagne elettorali, e guadagnare, si sperano loro, altri voti. Però poi il problema si ripropone: altri voti per fare cosa? Cioè sempre questo tentativo di posticipare l'appuntamento con le scelte concrete, con il governo, forse, con l'azione del governo. Forse, Stefano, Grillo sperava di stare un po' più all'opposizione rispetto a come si è trovato in forza il risultato elettorale. Questo viene detto, è possibile che ci sia, che lui sia stato preso anche al controtempo dal successo, al di là di qualsiasi aspettativa. Nessuno se l'aspettava, evidentemente, forse non se l'aspettava neanche lui. L'unico dato che, se vogliamo cogliere, è un certo rispetto che Grillo ha manifestato finora nei confronti del Presidente della Repubblica. Ecco, questo bisogna riconoscergli questo aspetto. Però non basta a definire un profilo di un personaggio che si rende conto di quale sia la sua forza e che intende metterla a frutto. Certo, l'atteggiamento dell'assoluta intransigenza è un atteggiamento di tipo rivoluzionario, tra virgolette, perché vuol dire puntare sulla destabilizzazione totale in attesa, come dice lui alla rivista americana, di guadagnare il 100% del voto e quindi di controllare e dominare il paese. Questa è un'affermazione un po' paradossale, però tradisce questo aspetto che ho detto. La volontà di mantenersi sul terreno favorevole, che è quello delle elezioni, possibilmente elezioni permanenti, per non fare mai conti con la realtà. Vedremo che cosa succederà, e Stefano, naturalmente sono molto curioso di sentirti sabato prossimo, quando avremo finalmente appunto l'apertura del nuovo Parlamento. Quello sarà una grossa grana, no? Le elezioni di due presidenti, soprattutto al Senato, i nodi sono molto molto intrecciati. Vedremo che cosa succederà. Grazie intanto per questa settimana. Grazie come a te, sempre, Simone, Stefano. Ciao. Buona giornata. Il punto di Stefano Folli, ve lo ricordo, va in onda tutte le mattine, anche naturalmente in forma ridotta, è ovvio. Tutte le mattine nel nostro giornale radio delle 8. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Come si diceva poco fa, in chiusura dell'appuntamento con Stefano Folli, tante volte abbiamo parlato di attivismo digitale da questi microfoni. L'ultima, due settimane fa, in piena giornata di silenzio elettorale, siamo ritornati su Occupy Wall Street e non solo, insomma, anche di come tramite la rete si è andato a votare negli Stati Uniti, si è lavorato perché si votasse sui 4 referendum per il matrimonio omosessuale. Ebbene, oggi andiamo al contrario, invece di occuparci di attivismo digitale ci occupiamo di inattivismo digitale. Gabriel Ektorp, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Portavoce degli Indivanados, andate a seguire su Twitter l'account Twitter Indivanados, e saluto Filippo Sensi, vice direttore di Europa. Buongiorno Filippo. Buongiorno a voi. Persona serissima che abbiamo coinvolto in un vortice di cazzeggio. Allora, iniziamo da Gabriel Ektorp, raccontaci un po' cosa sono gli Indivanados, perché gli Indivanados in realtà siamo tutti noi, tutti quelli che davanti a uno schermo televisivo e davanti ad un talk show twittano, fondamentalmente, allora, diciamo, o scrivono sui social network. È tutto dagli indignato spagnoli, nel senso che mentre in Spagna noi assistiamo anche dalla TV a queste folle oceaniche che riempiono le piazze e protestano contro la casta, contro i poteri forti, no, contro la crisi e contro le banche, in Italia c'è un fenomeno diverso, c'è quello che noi abbiamo cercato di rappresentare il più possibile, che è quello degli Indivanados. Il termine è volutamente ironico, nel senso che però nasconde una realtà, nel senso che noi preferiamo manifestare la nostra indignazione comodamente sul divano, cioè nel senso riteniamo che non sia importante scendere in piazza, o comunque non riusciamo a farlo per vari motivi, e quindi mentre assistiamo ai talk show televisivi, che ce ne sono tantissime, c'è sempre un momento per cui indignarsi, quindi dalle 6:50 di mattina fino alle 1:10 della notte, partendo da Cora Rai, Omnibus Mattino, fino a Omnibus Notte, Ballarò, Servizio Pubblico, Piazza Pulita, fino alla domenica sera quando c'è Report, noi ci roviniamo la vita di fronte assistendo a questo spettacolo indegno che ci offre ogni giorno la politica. Ma perché ci indigniamo? Perché di fondo noi abbiamo la passione per la politica, noi non possiamo vivere senza la politica, però pur non potendo vivere senza politica, noi non siamo attivisti di movimenti, di partiti, cioè noi non siamo iscritti ai partiti, noi non andiamo né alle manifestazioni ma neanche alle assemblee o ai comizi alle riunioni. Ektorp, sembra di sentir parlare Grillo, del resto lei è portavoce degli Indivanados, cioè non è il capo politico degli Indivanados. No, assolutamente. Allora, diciamo che molti dicono: ah, ma ora siete un po' come i grillini. No, è una cosa molto diversa, e vado a spiegare una cosa, nel senso che il movimento di Grillo ha questo riferimento che è appunto Beppe Grillo, con la sua, che non è assolutamente un indivanato, anche se magari a volte rilascia interviste su un divano, ma nel senso che lui comunque è un personaggio famoso, noto, si espone, tra l'altro ultimamente usa anche i metodi tradizionali della politica, cioè il comizio sulla piazza, sì. Quindi noi siamo veramente molto diversi da questo video. E poi io come portavoce, in realtà per me leader o guru sarebbe una cosa troppo impegnativa. Io sono una persona che fa un altro lavoro, insomma, e quindi dedica un po' del tempo libero a fare il portavoce di questo movimento, che poi non ho creato io, il movimento esisteva già. Questa è una cosa importante. Filippo Sensi, come funziona? Poi noi ne abbiamo parlato anche un po' più seriamente altre volte, anche senza nulla togliere al movimento degli Indivanados. Intendo un po' più seriamente nel senso che ci siamo detti spesso politica che cerca di entrare in rete, in realtà passa automaticamente attraverso la TV, e tutto quello che passa attraverso la TV rientra automaticamente in rete e ne diventa l'argomento principale. Gli Indivanados sono anche lo specchio di tutto questo, no? Ma sì, certo, è un po' una vendetta trasversale della televisione nei confronti della rete e viceversa, in realtà come se fossero due dimensioni che si fanno un po' i dispetti, cioè da una parte abbiamo la rete che pretende di prescindere dalla televisione e in qualche modo qualcuno ha letto il fenomeno Grillo in questa chiave, cioè a dire, mentre tutti erano affannati e si affollavano davanti ai talk show, nel frattempo Grillo si metteva alla piazza e utilizzava la rete, e guardate cosa è successo, ci siamo svegliati con un 25% di persone che evidentemente non erano impressionate dai riflettori e dalla chiacchiera dei talk. Allo stesso tempo però la rete, penso a Twitter in maniera particolare, penso ai social network, è fortemente dipendente dalla televisione, ne abbiamo anche un metro, no? La rete ci consente di misurare i famosi trending topics, cioè nella colonnina di sinistra di Twitter possiamo vedere quali sono le tendenze del giorno e come dire, inesorabilmente ogni qualvolta c'è un programma televisivo o anche un talk show politico, la colonna dei TT è colonizzata dai programmi TV, lo vediamo sia per cose diciamo non politiche ma anche per i dibattiti televisivi, per le primarie durante X Factor, ma insomma in generale basta che ci sia un talk dalla mattina fino alla notte, come ricordava il nostro interlocutore, che immediatamente diventa il trend della giornata o il trend della mattinata o insomma della fase lunare che c'è. In qualche modo c'è una sorta di gara, di corsa, di duello tra la TV e la rete per chi riesce a occupare, per usare un po' il verbo di cui dicevamo prima, a occupare lo spazio dell'altro. Ma ecco, c'è anche un aspetto, cioè l'aspetto che diceva Hector, perché secondo me è interessante. Noi in piazza non ci scendiamo, ma che c'hanno questi italiani? Se chiedi a me, quello che penso, in campagna elettorale abbiamo visto in tutto sommato un ritorno prepotente della piazza, soprattutto negli ultimi giorni di campagna elettorale. Cioè, siamo preparati a una campagna focalizzata soprattutto sulla televisione, no? Abbiamo visto una occupazione quasi permanente di vari leader politici, il ritorno di Berlusconi si è mosso tutto dentro il perimetro del teleschermo, cioè Berlusconi non ha fatto grandi manifestazioni o iniziative, c'era una questione della sicurezza, eccetera, però insomma in sostanza la presenza televisiva, quindi il dialogo gli italiani si è tenuto soprattutto in TV. Nell'ultima settimana, nell'ultimo miglio, Grillo, l'uomo del rete, ha riscoperto la piazza fino all'apoteosi diciamo di piazza San Giovanni. Quindi io ti direi, è vero che la piazza è più faticosa, tanto più con le sue liturgie, tanto più con l'ansia da prestazione, cioè a dire quanta gente non riuscirò a portare, insomma già spaventa in questi tempi di disaffezione verso la politica a sala, congressi, figurarsi andare in piazza, però è anche vero che a fronte di questo recupero della piazza c'è soprattutto questa straordinaria quarta dimensione dei social network, cui tutti quanti noi possiamo appunto accedere facilmente, prendere parte e magari incidere anche, in fondo gli Indivanados è un po' questo, cioè è la trasposizione della indignazione della piazza di Madrid piuttosto che di Tahrir, invece nella dimensione protetta del Pinello e del salotto di casa, dove però anche lì abbiamo il diritto e ci sentiamo in dovere di dire la nostra. C'era anche l'hashtag Occupy Divano, Hector, no? O mi sbaglio? Sì, esattamente, gli hashtag poi servono anche per quando vogliamo fare le nostre immobilitazioni su Twitter, no? Quindi quando c'è un evento della politica che ci trascina, eccetera, l'hashtag è un po' quello che per le piazze era il cartello, insomma, lo striscione, no? Lo striscione, quindi è una forma di partecipazione. Allora, quello che noi cerchiamo di costruire poi su Twitter, fermo restando che per entrare negli Indivanados basta esserlo, non ci sono moduli da compilare, tessere da prendere o quote da pagare, basta essere le persone appassionate in maniera maniacale, ossessiva, compulsiva alla politica, indignati per lo status quo. Se poi uno vuole diventare inattivista vero e proprio, entri su Twitter, ci segua Indivanados, naturalmente, quindi deve solamente cliccare su un pulsante, quindi non è richiesto nulla, neanche lì una registrazione, una compilazione, qualcosa. Quindi anche questo ci differenzia dal Movimento 5 Stelle. Fermo restando che molti Indivanados effettivamente sono elettori del Movimento 5 Stelle, ma non sono circa un terzo, ecco, se vogliamo dare un ordine di grandezza. Molti sono anche elettori del Partito Democratico, ci sono anche altri che non si riconoscono in un partito preciso, insomma. Quindi è un movimento molto trasversale da quel punto di vista, un movimento orizzontale in tutti i sensi e trasversale. E dove lo vuole far andare a parare questo movimento? Non lei, naturalmente, che è solo il portavoce, Hector. Esatto, io propongo quindi a tutti gli Indivanados, anche quelli che sono ancora 1.0, cioè magari la rete non la usano ancora bene o non la usano proprio, di utilizzare Twitter. E io considero Twitter la liquid feedback degli Indivanados, cioè una sorta di piattaforma che potrebbe fungere come luogo di aggregazione di tendenze che possono essere appunto aggregate e portare delle istanze verso le istituzioni. Quindi si potrebbe addirittura pensare in maniera organizzata, avendo mezzi e possibilità naturalmente, di riscrivere la Costituzione via Twitter. Ecco, adesso sto dicendo una cosa veramente molto grande. No, adesso francamente mi sembra un po' troppo, Hector, per tutto sommato. Comunque c'è appello agli Indivanados che lo fanno ancora, che sono ancora Indivanados in maniera tradizionale, cioè chiacchierando a casa, arrabbiandosi, parlando con la moglie o col marito o con i figli o con gli amici e guardando un talk show. Iscrivetevi a Twitter e seguite gli Indivanados, diventate gli Indivanados digitali anche voi. Grazie a Gabriele Hector, grazie a Filippo Sensi, vice direttore di Europa. Buona giornata a tutti e due. Ci ritroviamo tra un attimo e parleremo di politica e nuovi media con una persona che si intende sia di politica che di nuovi media, che è Renato Soru. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci per quest'ultima parte di Vota Antonio. La parte precedente l'avete sentito, abbiamo preso un po' a ridere, ma nemmeno troppo a dire il vero, insomma, questi Indivanados che sono su Twitter e che fanno inattivismo digitale, un'idea che io trovo meravigliosa e una splendida rappresentazione, splendida non lo so, insomma, quantomeno una divertente rappresentazione del paese, tutto sommato. Mentre invece adesso andiamo su cose un po' più serie, su un uso anche maturo della rete, sulla possibilità che la rete, ne abbiamo già parlato anche da questi microfoni in varie occasioni, l'uso della rete per scopi predittivi anche sui risultati elettorali, ma non solo per quello. Saluto una persona che si intende sia di politica che di internet, che di rete, ed è Renato Soru. Buongiorno. Buongiorno a lei. Piacere di averla ai nostri microfoni. Allora, come Tiscali, voi che cosa avete fatto in occasione di queste elezioni? Mi sembra che ci siano state due grandi direttrici, una classicamente informativa, con coinvolgimento tramite i social, e una appunto anche predittiva, dalla quale poi i risultati emersi sono stati interessanti, perché sono stati quasi quelli delle elezioni, in sostanza. Sì, Tiscali a brevissimo, insomma, sta presentando un progetto, un nuovo servizio che si chiama Estella, che è un motore di ricerca specializzato sul web italiano. E nel fare questa attività, naturalmente, ha spiderizzato e archiviato nei propri server tutto il contenuto del web italiano. Lo archivia, lo indicizza, lo analizza. E oltre a fornire risposte alle domande degli utenti, questa grande quantità di dati, cosiddetti big data, li chiamano gli esperti, possono essere fonte per costruire tanti altri servizi. Uno di questi è analizzare, al momento delle elezioni, che cosa succede in rete, che cosa si dice, quali sono gli orientamenti che si possono intravedere, qual è il sentimento degli utenti. Quindi noi abbiamo utilizzato questi dati, abbiamo visto con attenzione circa 2500 fonti di news, circa migliaia di blog, i post sui social network, i rilanci, like, condivisioni e così via, e ne è emerso un indice di popolarità, non solo. E insieme a dei nostri amici catalani che avevano fatto un servizio analogo per le ultime, per le recenti elezioni catalane, abbiamo provato anche a capire qual era il sentimento della rete, cioè capire che cosa si dice, se affermazioni positive o negative, e ne abbiamo estratto un indice che abbiamo chiamato così di popolarità, che però è fatto sia di frequenza che di orientamento, ed emergeva che la presenza straordinaria del Movimento 5 Stelle, la crescita fortissima di Silvio Berlusconi in un certo momento, insomma si è visto più o meno che cosa stava accadendo, e questo ha certe cose le ha dette in anticipo. Una domanda: il sistema si basa solamente su algoritmi o c'è anche l'intervento umano? C'è una lettura umana dei dati e poi una reimmissione, magari un lavoro ulteriore poi sugli stessi sistemi di calcolo? No, si basa sostanzialmente su algoritmi, quindi sull'analisi proprio della frequenza di tutte le fonti possibili, come ho cercato di elencarle prima, e sì. Poi su le cose più importanti, il sistema va a cercare di capire che cosa dice, e cioè se c'è un orientamento positivo o negativo, oppure il sistema può anche non comprenderlo, oppure comprenderlo ma con un'alta percentuale di errore, allora non si esprime e quindi dice neutrale. Quindi in maniera automatica, senza l'intervento umano, circa il 50% dei post, dei contributi, riesce ad assegnare un valore positivo o negativo, circa il 50% preferisce non assegnarlo per non immettere rumore, per non immettere degli errori nel calcolo. Poi su alcune cose gli abbiamo dato anche una scorza per evitare di fare errori grossolani, e anche per quello che abbiamo preferito in circa il 50% dei casi non considerare l'orientamento e piuttosto che immettere degli errori. Naturalmente, le sembra che in prospettiva tutto questo possa essere la morte del sondaggio? Perché insomma tante critiche ci sono state sui sondaggisti perché si è detto poco, hanno saputo prevedere dell'andamento del Movimento 5 Stelle, soprattutto di questo 25% che è riuscito a prendere. In futuro le sembra possibile che questi strumenti diventino più affidabili dei sondaggi, molto più affidabili dei sondaggi, tanto da rendere inutili i sondaggi? No, io non mi vorrei spingere a dire cose di questo genere in questo momento, anche se è notorio che in Catalogna questo strumento è stato più preciso dei sondaggi, ha previsto meglio quello che sarebbe accaduto. Nel nostro caso questo strumento parla del web, nel web ormai c'è una quota importante di italiani e quindi di elettori, ma non ci sono tutti, ci sono quelli, come è stato analizzato, che si informano ancora oggi principalmente se non unicamente in televisione, ci sono altre persone che vanno a votare che guardano anche in maniera distratta la televisione e si informano solamente in casa o si informano pochissimo, ci sono tante persone che decidono forse all'ultimo momento e che non si esprimono in nessun caso, però certo sempre più nel web ci sarà la quasi totalità degli elettori italiani e sempre più gente tenderà ad esprimersi nel web, e a quel punto uno strumento come questo non è altro che un sondaggio minuto per minuto, direi. Le vorrei parlare con lei adesso anche dell'uso che viene fatto della rete da parte della politica. È un uso che, lo abbiamo raccontato tante volte anche da questi microfoni, che ci sembra per il momento piuttosto primitivo. Al di là di quello su cui state lavorando voi anche con Aistela, con questo nuovo motore di ricerca del quale ci stava parlando, che è la questione dei big data, che probabilmente è ancora di là da venire per quanto ci riguarda, mentre invece è stato un elemento centrale, insomma, queste grandi masse di dati è stato un elemento centrale nella campagna elettorale americana, nell'ultima arrivata, e appunto anche da questi microfoni ve l'abbiamo raccontato tantissime volte. Abbiamo portato moltissimi esempi, andate nell'archivio della trasmissione e troverete molti elementi. Al di là della questione dei big data, proprio l'uso della rete dei social network da parte dei politici al momento ci sembra piuttosto primitivo. Tendenzialmente si tende a buttare dentro un comunicato stampa e poco altro, livelli di interazione scarsissimi, poco dialogo. Lei che dice? Io concordo esattamente in quello che lei ha appena detto, che si usa la rete più come una vetrina, più come spesso una buca delle lettere in cui mettere semplicemente le cose che si hanno da dire e utilizzandolo come altro canale di comunicazione, ma in una sola direzione. Il vantaggio forte della rete è finalmente quello di cambiare in continuazione, di poter non solo parlare ma ascoltare. E certamente è comprensibile che ai politici di questi tempi soprattutto tocchi di più ascoltare che parlare, ascoltare molto prima di riassumere e dire qualcosa. Lei ha l'impressione che il suo partito, il Partito Democratico, abbia sottovalutato questo aspetto? E questo sia anche una componente, no, della distanza? Io ho l'impressione che appunto tutta la politica italiana, tranne il Movimento 5 Stelle, abbia sottovalutato l'importanza di Internet e l'abbia utilizzato poco e male. E credo che avremo tutti da imparare, che ci sarà da imparare. Anche ci sarà da imparare anche da questi del Movimento 5 Stelle, che oggettivamente, al di là di Grillo, no, che anche lui fa comunicazione unidirezionale, non è che dialoga un granché, a dire il vero, in rete, in realtà quelli del Movimento 5 Stelle la usano e la usano anche bene, avranno qualcosa da insegnare su questo, no? In realtà qualcuno ha anche già osservato come le tecnologie che loro usino non sono quelle più aggiornate o quelle più recenti, al di là del fatto che hanno trasmesso in streaming con una cosa che loro chiamano la cosa, appunto, con una webcam, i comizi in tempo reale. Ma spesso sono ancora più legati ad un internet non 2.0, come diciamo oggi, ma certamente hanno mostrato una capacità di organizzarsi e di interazione totalmente diversa da quello che hanno mostrato altri partiti. E io credo che l'essenza della rete, occorre capirlo, non è quello di un altro postino che ci permette di comunicare in fretta e di consegnare in fretta i nostri messaggi di qualunque formato, di qualunque dimensione siano. La rete serve per mantenere un contatto bidirezionale, per ascoltare, per comprendere, per avere dei feedback in continuazione. Per, in una parola, rendere finalmente importante, pervasiva, la volontà di partecipazione da parte dei cittadini. Un'ultima domanda invece riguarda a Istella. Ha detto che in fase di lancio... Istella, con lei, per carità. Lo so. È una parola sarda, spagnoleggiante, che sta per Stella. Quando partirà? A giorni. Sarà presentata, non voglio sbagliare la data, ma è veramente questione di giorni. Le dico in anteprima che sarà presentata in un luogo simbolico della ricerca bibliografica in Italia, sarà presentata nella sala Igea dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani. Benissimo, splendida idea, tra l'altro, proprio nel luogo dove... Quando io ho fatto il liceo era il nostro motore di ricerca, da lì si partì. fantastico, appunto. Luogo dei libri per eccellenza, nel quale viene presentato appunto un nuovo motore di ricerca. Grazie Renato Soro per essere stato nostro ospite. Buona giornata. Buona giornata. Noi chiudiamo qua questa trasmissione, un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo con Votantonio, lunedì invece naturalmente con 9 in punto.